E buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Alma, in particolare agli ascoltatori fedeli de I Colori dell'Anima, che come sapete va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22. Allora, questa sera con me, come sempre, Anna Maria. Buonasera a tutti. Buonasera Anna Maria, e abbiamo un ospite in studio, Massimo. Buonasera a tutti. Con il quale questa sera parleremo di risorse naturali in agricoltura, in particolare di suolo e di acqua. E affronteremo questo argomento, diciamo, in varie sfaccettature e vorremmo prendere spunto per la trasmissione di questa sera, che quindi è dedicata, diciamo, al suolo e all'acqua in particolare. Da diciamo un esperimento, se così possiamo dire, una tecnica molto semplice ma altrettanto rivoluzionaria che è stata utilizzata in Burkina Faso. Esatto. Allora, noi abbiamo preso spunto da un articolo. Io adesso vi leggerò una parte di questo articolo che è stato pubblicato l'11 febbraio del 2013 da Camilla Ripani. Il titolo dell'articolo si chiama L'uomo che fermò il deserto. E sostanzialmente questo è scritto: L'uomo che fermò il deserto non è né uno scienziato né un facitore di miracoli, ma un contadino del Burkina Faso, che grazie al suo exploit continua a suscitare invidia e ammirazione presso i più illustri agronomi del pianeta. La sua battaglia per salvare le colture di miglio e di sorgo dall'avanzare delle sabbie, Yokuba Sawadogo, correggetemi se sbaglio. Guarda, una pronuncia perfetta. Indubbiamente. Dunque, questa battaglia la iniziò più di un quarto di secolo fa, quindi parliamo degli anni Ottanta. Infatti, negli anni Ottanta sembra che in questo paese la terra era afflitta da una terribile siccità e che da allora non ha fatto che peggiorare. Quindi ricordiamo che stiamo parlando del Sahel, sovrastato quindi dal più grande e più vorace deserto del mondo, il Sahara, quindi, che diventa sempre più vasto, mangiando giorno dopo giorno savane e terre agricole, con un appetito aguzzato dal clima impazzito per via dell'effetto serra. Allora, come ha agito Yokuba? Questo contadino ha ricorso ad una ricetta antica e forse preistorica, che si chiama Zai, in lingua significa fossa, ed è una pratica agricola usata a quelle latitudini dalla notte dei tempi. Magari io chiederei al nostro ospite se ci introduce questo tipo di tecnica, perché noi ci siamo assolutamente ignoranti in materia, abbiamo bisogno di delucidazioni. Bene, in poche parole, la tecnica usata, riutilizzata dal contadino burkinabè, si basa su un'antichissima tecnica di cui si conoscono, per esempio, i primi, siamo ancora a livello archeologico, si trovano degli esempi di questa tecnica già in Medio Oriente, per esempio, dove nell'area chiamata la mezzaluna fertile, dove l'agricoltura è nata tra i 15.000 e i 10.000 anni fa, i primi contadini dell'epoca, essendo quella comunque una zona soggetta a siccità fin dai primissimi tempi, i contadini dell'epoca usavano creare queste fosse, queste mini dighe per raccogliere le poche precipitazioni che arrivavano durante l'anno. La raccolta di queste precipitazioni in queste fosse permetteva alla terra fertile di rimanere più a lungo e per cui di essere poi seminata. Il contadino del Burkina Faso ha riattivato questa antica usanza, il cui uso poi si era perduto nei tempi, nei secoli, e in più ha usato favorire, diciamo, la creazione di fertilità dentro queste fosse aggiungendo del compost, del letame, del fogliame, della materia organica. Grazie. E questo nel giro di 2 o 3 anni crea un ambiente ideale per le radici delle piante. Quindi favorisce, ecco, la Favorisce ripresa, fra virgolette, la ripresa dell'agricoltura. Sì, perché favorisce la fertilità del terreno, la fertilità del terreno che altro non è che presenza di sostanza organica dentro un supporto minerale che è il terreno puro senza sostanza organica. Perché ovviamente qui parliamo di un terreno che è già fertile, manca l'acqua. No, diciamo che è complessa la cosa, perché quando si parla di agricoltura, perché la coltivazione delle piante richiede tre elementi principali, che sono la luce, un supporto fisico e del nutrimento che dà il terreno, e l'acqua che permette al nutrimento di essere assorbito dalle piante. Per cui questi tre elementi sono fondamentali per la crescita delle piante, per cui per lo sviluppo dell'agricoltura. In una zona semidesertica come quella del Sahel ci sono due di questi elementi che mancano, e che sono la parte organica del terreno e l'acqua. Per cui favorendo con le fosse l'accumulo di acqua e aiutando il terreno a riformare la fase organica aggiungendo del letame, si crea in poco tempo, perché nel giro di un paio di anni si ricrea una piccola zona fertile all'interno di una zona desertica, ed è solo la parte dentro le fosse che può essere utilizzata, non è che poi tutto il terreno dell'area diventa fertile. È circoscritto alla fossa. Sì. E queste fosse chiaramente più se ne fanno e più alla fine si riesce a rendere fertile un'area vasta. Ho capito. Massimo, tu diciamo prima di iniziare questa trasmissione ci dicevi che questa tecnica è stata utilizzata anche in Italia tra la prima e la seconda guerra mondiale. Sì, non è chiaramente la stessa tecnica, però si rifà allo stesso principio. Da noi si usava questa tecnica più che altro per i rimboschimenti e per ridurre l'erosione nelle zone disboscate di montagna o di collina. Queste zone a forte pendenza venivano lavorate dagli operai, che creavano praticamente dei mini terrazzamenti, per cui si scavavano lungo le linee di livello questi mini terrazzamenti di larghezza che è variabile dal mezzo metro a un metro a seconda della pendenza del terreno, e poi si lasciavano lì per qualche anno. Questi mini terrazzamenti, man mano che il tempo passava e man mano che le piogge cadevano, raccoglievano quella parte di terreno superficiale che la pioggia tendeva a far scorrere verso valle. A trascinare via. Per cui, invece che erodersi fino al fiume o alla vallata sottostante, maggior parte di questa terra fertile rimaneva catturata da questi terrazzamenti. Per cui nel giro di 2-3 anni anche lì si creava questo ambiente fertile in cui poi venivano piantate le piantine di alberi di varietà a seconda della zona, e per poi essere rimboschite. Insomma, in pratica è una tecnica che è stata usata anche da noi e tuttora si usa nelle tecniche di rimboschimento forestale. Insomma. Ecco, ma al di là, diciamo, di per esempio lo spunto, come diceva Anna Maria, l'abbiamo preso da questa esperienza del Burkina Faso, ma secondo te con la modernità che c'è nei nostri paesi occidentali è proponibile una tecnica del genere o è un po' così, diciamo, fuori dal mondo? È proponibile a livello di singolo contadino, magari se in un'azienda agraria dove c'è una parte del territorio che è incolta oppure che non è coltivata, può essere eventualmente rimessa a coltura utilizzando questa tecnica, sì. Ma col tipo di agricoltura, diciamo, industrializzata o di produzione come abbiamo noi, è una tecnica che è improponibile, anche perché poi non si presta alla meccanizzazione. Mm-hmm. E questo creerebbe dei grossi impedimenti poi alle operazioni culturali. Poi, diciamo, da noi, benché ci siano delle zone intorno all'area mediterranea che soffrano di siccità, si fa molto ricorso all'irrigazione, per cui diciamo che si ovvia alla carenza di acqua di pioggia in maniera diversa. E non sempre questo è positivo, poi ne parleremo anche più avanti. Va bene, allora io proporrei di fare un breve stacco musicale. Vorrei ricordarvi comunque che tutte le trasmissioni che voi ascoltate le potete ritrovare successivamente sul nostro blog, che è radioalma.eu/icolori dell'anima radioalma.eu/icolori dell'anima. Quindi tutte le trasmissioni le ritrovate successivamente, e se ci volete telefonare, Anna Maria, vuoi ricordare il telefono? Certamente. Allora, se avete voglia di parlare con noi, magari chiederci qualcosa di più su questi argomenti che trattiamo, potete chiamarci allo 02 345 2656. Allora, grazie, quindi noi mandiamo questo brano musicale e ci ritroviamo fra pochissimi minuti. Allora, eccoci di nuovo in studio nella trasmissione I colori dell'anima, mentre sono le 21:20 e stiamo parlando di risorse naturali, in particolare di terra e di suolo e acqua, in compagnia di Massimo Burioni, un funzionario della Commissione Europea che lavora proprio nel campo della ricerca in agricoltura e dal quale appunto vogliamo un po' sapere com'è la situazione dello sfruttamento del suolo. Esatto, e io sono curiosa di sapere se questo tipo di tecnica di cui abbiamo parlato finora è stata utilizzata solo in quel paese, oppure ci sono cose simili o la stessa tecnica magari che è stata usata in altre parti del mondo. Ma nel caso specifico dello Zaï, diciamo che il contadino del Burkina Faso ha fatto anche un gran lavoro di disseminazione, di pubblicità per questo metodo che lui aveva riscoperto, e che poi ha avuto un grande aiuto da parte dei media, perché è stato girato un documentario su questo, su questo contadino, e diciamo che nel giro di diversi anni è riuscito a far replicare la stessa tecnica anche ai suoi vicini ed anche ad altri contadini della zona e anche al di fuori della regione dove vive lui. Però non sempre una nuova tecnica ha la fortuna di essere poi replicata da altri contadini. Ci sono degli esempi in particolare, io ne ho uno che ricordo di persona, perché quando ho avuto l'avventura di lavorare in Africa per diversi anni prima di venire a lavorare a Bruxelles alla Commissione, e lavoravo in progetti di sviluppo agricolo. E mi ricordo in particolare una situazione in cui noi stavamo proponendo delle nuove tecniche per coltivare riso in zone più o meno alluvionali, ma con precipitazioni irregolari, e durante uno dei nostri giri conoscemmo un contadino locale di età indefinita, è sempre difficile definire l'età degli anziani africani, però lui diceva appunto che aveva quando era giovane aveva combattuto con l'esercito francese in Indocina. Addirittura? Sì, in Indocina, e per cui vivendo per diversi anni in situazione indocinese, aveva avuto modo di vedere come coltivavano il riso gli asiatici, e nel certo. caso specifico penso fossero i vietnamiti. E quando ritornò in Guinea, al suo paese, iniziò a replicare quello che aveva visto fare ai vietnamiti, per cui invece di aspettare la pioggia e l'allagamento del campo da parte della pioggia, cominciò a deviare il corso di un fiumiciattolo che passava vicino alla sua fattoria, e creò delle mini dighe, dei mini campi di riso come quelli che siamo abituati a vedere noi in Italia, il riso allagato, e in modo da avere sempre disponibilità di acqua. E lui ha continuato fino ai giorni in cui lo conobbi io, che erano i primi anni 90, e continuò questa tecnica raccogliendo fino a 4-5 volte più riso dei suoi vicini. E quando gli chiesi perché i suoi vicini non l'avevano imitato con la stessa tecnica, perché i suoi vicini continuavano con la tradizione semplice, se pioveva raccoglievano, se non pioveva non raccoglievano. E beh, lui non sapeva spiegarselo, perché lui disse che aveva provato anche a far capire agli altri come funzionava, però poi non aveva avuto seguito e aveva lasciato perdere. E la cosa che blocca questo tipo di innovazione è un po' il legame con la tradizione che si ha nelle campagne. Convincere un contadino a cambiare tecnica di lavoro, a cambiare modo di coltivare, che sono ancestrali, è una cosa difficile, specialmente in situazioni africane dove la tradizione e il ricordo degli anziani, di quello che faceva tuo nonno, di quello che faceva tuo babbo, è molto forte, e uscire fuori da queste linee guida è considerato quasi come uno sgarbo agli anziani e agli antenati. È molto difficile che una nuova tecnica, se anche vedendo che è più produttiva, venga messa in pratica da molte persone, a meno che non ci sia magari degli incentivi esterni, come succede con i progetti di sviluppo, per esempio, quando per convincere contadini a cambiare tecnica, allora gli si promettono degli incentivi in termini di fertilizzanti o di aiuti economici di altro tipo, cose che però poi non funzionano, perché una volta finito l'incentivo non c'è una vera convinzione che la cosa possa funzionare. Per cui dico, il caso del contadino del Burkina Faso è una di quelle situazioni che rimane abbastanza purtroppo isolate, insomma. Però nel caso del Burkina Faso, leggevamo nell'articolo che lui si è riferito a qualcosa che gli avevano trasmesso i suoi anziani, non l'ha inventato, né tantomeno l'ha sentito da qualcuno che veniva da un altro paese, se non ho letto male quello che era scritto nell'articolo. Sì, sì, sì. Fondamentalmente avevano già questo tipo di tecnica. Sì, lui si è limitato praticamente a riattivare una vecchia tecnica che però nessuno ricordava più, e in più ci ha aggiunto l'uso della parte organica, per cui del letame, del fogliame e dei residui organici, che è quello che poi ha alla fine dato la svolta. Sì, perché è la cosa che apporta di più al tipo di tecnica, che non basta fare le fosse e raccogliere quel po' di acqua per avere un terreno fertile, come dicevamo prima. Giusto. Ci vuole la parte organica che dà il nutrimento alle piante. Giusto. Allora, Massimo, dicevi che è difficile fare dei cambiamenti in agricoltura, e diciamo, venendo io stessa da un ambiente rurale, posso capire abbastanza quello che dici. Però è anche vero che, non so, guardiamo l'agricoltura italiana o anche degli altri paesi, ci sono state delle innovazioni incredibili in tutti gli aspetti dell'agricoltura. Quindi che cosa è successo? Che sono cambiate le generazioni, che i figli, come del resto in tutti i campi, hanno cominciato ad accettare una profonda meccanizzazione, direi, dell'agricoltura, che oggi forse non si fa quasi più niente a mano, diciamo, nel modo tradizionale. Quindi comunque qualcosa deve essere successo che ha indotto a questi cambiamenti e ci ha portato alla meccanizzazione che viviamo oggi. Ma quello che è successo è la stessa cosa che è successa nel XVIII secolo con lo sviluppo dell'industria, delle prime industrie. Anche in agricoltura abbiamo assistito dal dopoguerra, dal secondo dopoguerra, a quello che poi è stata chiamata la rivoluzione verde, a partire dagli anni 50, che è stato praticamente l'arrivo della chimica in agricoltura. Per cui con l'aumento della popolazione c'è stato un aumento di domanda di prodotti agricoli per l'alimentazione. Per cui i contadini si sono trovati in una situazione di dover spingere le produzioni al massimo, e la chimica è arrivata in aiuto con i fertilizzanti di sintesi, è arrivata in aiuto con i prodotti agrochimici come i pesticidi, i fungicidi e i diserbanti, e il tutto coadiuvato anche da nuove tecniche e dalla meccanizzazione, tutte cose poi messe a disposizione grazie anche alla ricerca, hanno dato una spinta enorme alla produttività dell'agricoltura. Poi c'è stato un cambiamento sociale che a partire dagli anni 60 lavorare in campagna non era una cosa diciamo di moda, per cui le nuove generazioni di contadini non avevano più intenzione di continuare il lavoro dei padri. Lavorare in campagna si sa che era ed è duro tuttora. C'è il fatto che si lavorava in campagna perché si studiava meno, per cui c'era meno opportunità, mentre l'azienda agricola dei genitori o dei nonni dava comunque una possibilità di guadagnare soldi e di farsi una propria vita. E tutti questi cambiamenti hanno spinto l'agricoltura, specialmente nei paesi occidentali, in Europa, Stati Uniti, in maniera principale, all'industrializzazione della produzione. Per cui grandi superfici, monoculture, quelle più richieste dal mercato, e grande uso di prodotti chimici di sintesi, antiparassitari specialmente, e concimi. E questo però poi ha avuto come contropartita un impatto negativo sia sulla salute umana che sull'ambiente. Se vediamo la situazione dell'inquinamento delle acque in Europa, nonostante stia migliorando leggermente negli ultimi anni, in diverse zone, quelle più a più alta concentrazione agricola, come il Belgio per esempio o l'Olanda, la situazione dei nitrati, per prendere solamente uno degli inquinanti, è abbastanza preoccupante ancora. Senti Massimo, prima di mandare ancora un altro brano musicale, quale colore vuoi associare a questo argomento di oggi sulle risorse naturali? Beh, il verde mi sembra logico. Verde, che è il colore, come dicevi tu, dell'agricoltura. Il verde è il colore dell'agricoltura, della produzione. Io mi occupo in maniera particolare della produzione vegetale, per cui il verde per me è la vita, è quello che più verde abbiamo intorno e meglio viviamo, insomma, sia dal punto di vista del paesaggistico che dal punto di vista un po' più prosaico della produzione di alimenti, insomma. Va bene, quindi questa trasmissione all'insegna del verde. Allora, un brano musicale, mi raccomando, rimanete sintonizzati con i colori dell'anima e ci ritroviamo fra pochissimi minuti. Eccoci di nuovo qua, dopo questo brano musicale. Io sono un poco curiosa, Massimo. Ci dicevi che lavori nel campo della ricerca. No, non puoi bere ora. Ci dicevi appunto che lavori nel campo della ricerca e sarei curiosa di sapere di che cosa ti occupi. Ci sono dei progetti che stai seguendo, che ti stanno particolarmente a cuore, di cui magari vuoi... E dei progetti anche che sono così, diciamo, che fanno capire forse un po' meglio l'argomento di oggi, che è quello delle risorse naturali, in particolare dell'acqua e della terra, del suolo. Sì, dunque, non la faccio breve perché sennò la descrizione di cosa faccio è abbastanza, può risultare noiosa in una trasmissione televisiva. Radiofonica, non ci vedono ancora. Lapsus. No. L'Unione Europea finanzia progetti di ricerca in tutti i settori tramite il programma quadro di ricerca multiannuale, bla bla bla bla. Uno di questi settori chiaramente è anche l'agricoltura, per cui ogni anno ci sono degli stanziamenti che vengono messi a disposizione dei ricercatori su dei bandi che vengono pubblicati, in cui si scelgono delle priorità e i ricercatori mandano le loro proposte, noi le valutiamo, quelle meritevoli vengono finanziate. Poi i progetti vengono seguiti da noi, e per cui noi, diciamo, seguiamo tutto l'iter dalla pubblicazione dei bandi fino alla negoziazione del progetto e al seguito del progetto fino alla fine, il monitoraggio del progetto fino alla fine. Il settore di cui mi occupo io in particolare è la produzione vegetale e l'impatto ambientale della produzione vegetale, per cui suolo e acqua sono le due risorse naturali sulle quali rivolgo la maggior parte dell'attenzione quando si tratta di selezionare le priorità di ricerca per ogni bando. I progetti che finanziamo noi per adesso stanno producendo buoni e ottimi risultati, specialmente per quanto riguarda la gestione dei suoli agricoli e la diminuzione dell'uso dell'acqua in irrigazione per produrre derrate alimentari. Scusami, questi progetti sono progetti localizzati in paesi specifici oppure in tutto il mondo, Europa? Sì, dipende. Avendo la possibilità di pubblicare bandi annuali, ogni anno si decide su cosa focalizzarci. Per cui noi finanziamo progetti strettamente europei, per cui, in cui possono partecipare comunque ricercatori di tutto il mondo, e a volte a seconda delle circostanze e magari degli accordi bilaterali o multilaterali con altre entità internazionali, si cerca di andare a trovare dei soggetti di ricerca che siano di interesse più vasto. Se si pensa per esempio a uno degli ultimi bandi che abbiamo pubblicato nel 2010, era focalizzato sulla situazione africana, per cui sull'interazione tra la salute, l'acqua e l'agricoltura nei paesi africani. Per cui questo era un bando coordinato da diverse direzioni della Direzione Generale di Ricerca e che metteva a disposizione 63 milioni di euro e alla fine sono stati finanziati 26 progetti, tutti fortemente localizzati in paesi africani con stretta collaborazione tra partner europei e partner di università e centri di ricerca africani locali, chiaramente. Sì, sì, quindi sì. C'era una cooperazione fra... Una stretta cooperazione, l'idea era nata infatti poi da un accordo di alto livello tra l'Unione Europea e l'Unione Africana che avevano individuato tra le varie priorità appunto quella che metteva in correlazione questi tre elementi principali per migliorare il livello di vita delle popolazioni africane, per cui salute, acqua e alimentazione, che sono le tre cose principali, fondamentali chiaramente. Chiaro. Molti di questi progetti si occupano tuttora, perché poi sono iniziati nel 2011 e sono ancora tuttora in corso, si occupano di migliorare lo sfruttamento dell'acqua sia in zone saheliche o presaheliche che anche in zone dove non c'è mancanza di acqua, ma magari le precipitazioni sono a volte esagerate e non c'è un buon utilizzo della risorsa acqua comunque. Allora Massimo, prima di lavorare in commissione tu hai fatto comunque anche delle esperienze in paesi africani. Queste esperienze secondo te ti sono servite, diciamo, anche poi a sviluppare la tua carriera futura e magari ad avere una sensibilità maggiore verso appunto un tipo di progetti di cui parlavi prima, che sono questi progetti in collaborazione con i paesi africani? Da un certo punto di vista le esperienze che ho fatto io in Africa penso che abbiano in comune poi con le esperienze di chiunque abbia avuto modo di lavorare e di vivere in paesi africani. Ti serve come esperienza per capire l'importanza delle cose di base. Anche qui ritorniamo alla stessa storia, insomma, qui si parla di acqua e di suolo come delle due cose fondamentali di cui l'essere umano ha bisogno per poter produrre gli alimenti. E allora, in situazione africana, come per tante, come in tanti altri settori, ma in quello agricolo in particolare, si ha a che fare con esperienze, diciamo, estreme, per cui è più facile rendersi conto di cosa significa la mancanza d'acqua o di cosa significa la mancanza di buon suolo da poter coltivare. E questo serve poi anche in futuro per dare la giusta importanza a questi elementi anche da noi. E noi siamo, diciamo, purtroppo abituati a considerare come il suolo e l'acqua come due cose inestinguibili che abbiamo sempre avuto, che sempre avremo e per cui non ci mancheranno mai. Ma se si va a guardare bene, analizzare bene la situazione anche in Europa, ci accorgeremo che queste due risorse cominciano a scarseggiare anche da noi. Il suolo in particolare, ma anche l'acqua. L'acqua per due motivi, perché la stiamo inquinando e l'acqua inquinata non è riutilizzabile, a meno che di spendere un sacco di soldi per renderla riutilizzabile, e il cambiamento climatico sta portando a certe situazioni estreme alle quali non eravamo abituati. In zona mediterranea si stanno creando delle desertificazioni di suoli che prima erano ottimi suoli coltivabili, in zona più nord europea si stanno verificando eventi estremi di freddo, di precipitazioni eccessive, di umidità eccessiva, che creano a loro volta altri tipi di problemi, ma con lo stesso risultato, che è quello di ridurre le produzioni agricole. Per cui questo considerare, come dare per scontato che avremo sempre ottimo suolo e ottima acqua per poter coltivare, è uno dei più grossi errori che potremmo fare. Per cui a livello di ricerca noi stiamo operando in maniera già da mettere le mani avanti e cercare già soluzioni a quelli che saranno i problemi da qui a 10-20 anni. Che potrebbero presentarsi. Sì, che si presenteranno sicuramente. Beh, cerchiamo di essere positivi. Che stiamo lavorando perché questi problemi non diano a loro volta troppi altri problemi. Non abbiano grossissime conseguenze. Cerchiamo di arginare il problema, come si dice. Va bene, allora un ultimo brano musicale, poi ci sarà l'ultima parte di questa trasmissione di oggi dei Colori dell'Anima, dedicata alle risorse naturali, in particolare quindi al suolo e all'acqua, in compagnia del nostro ospite Massimo Burioni. Rimanete sintonizzati con i Colori dell'Anima, con Radio Alma, e a fra pochissimo. E oggi siamo con il verde, vero Anna Maria? Esattamente, siamo con il verde dell'agricoltura. Massimo, volevo chiederti, ma qual è la situazione europea attuale? La situazione europea attuale, dell'agricoltura europea attuale, bisognerebbe chiederlo alla DG Agricoltura. ma non c'è nessuno qui che può darci una mano, per cui posso no, ma tu parlavi prima di diminuzione del suolo. Sì, magari no, posso cominciamo tentare da quello, di dare qualche dato sulla situazione di queste due risorse fondamentali, comunque l'acqua e il suolo. A livello globale non c'è carenza, cioè noi siamo un pianeta fatto di acqua, per cui non, teoricamente non abbiamo carenza di acqua. Il problema grosso è che l'acqua utilizzabile per l'agricoltura è quella dolce, quella che noi chiamiamo acqua dolce, che è una percentuale infima di tutta l'acqua presente sul pianeta, e una buona parte di questa acqua dolce è inutilizzabile perché è ghiacciata ai poli, per cui siamo messi abbastanza male. Però quella piccolissima percentuale di acqua dolce disponibile è ancora sufficiente per coltivare e per gli usi alimentari e industriali anche. Il suolo, anche questo teoricamente è una risorsa rinnovabile, perché diciamo in un ciclo lunghissimo ogni suolo si ricicla come suolo fertile, volendo. Il problema è che il ciclo di rinnovamento del suolo, così come quello dell'acqua, per i tempi umani è un po' troppo lungo, perché si parla di millenni e noi non abbiamo tempo di aspettare che l'acqua inquinata si ricicli o il suolo reso sterile ritorni ad essere fertile. Sicché quello che abbiamo dobbiamo tenercelo ben da conto e utilizzarlo bene. Il grosso problema che abbiamo in Europa, uno dei grossi problemi che abbiamo in Europa riguardo al suolo, è la perdita di suolo agricolo per altri utilizzi, dovuti all'urbanizzazione, costruzione di strade, infrastrutture, parcheggi e quant'altro. Questo suolo, e si parla in Europa di cifre intorno ai 1000 chilometri quadrati annuali persi di suolo agricolo per altri utilizzi, sono 275 ettari al giorno di suolo che viene perso, per cui quasi 300 campi, i famosi 300 campi da calcio. Caspita. Sì, e questo è un dato preoccupante, perché nel momento in cui l'aumento di popolazione che stiamo sperimentando richiede un aumento della produzione agricola, noi stiamo perdendo la base su cui coltivare. E è una cosa anche che a livello strategico mette l'Europa in una situazione di dipendenza, la stessa dipendenza che abbiamo per esempio per procurarci il fosforo per concimare i terreni o per altri, anche per altri usi industriali. Come lo procuriamo il fosforo? Perché il fosforo in Europa non abbiamo miniere di fosforo. Il fosforo che utilizziamo è anche questo una risorsa naturale, che però è una risorsa finita, nel senso che una volta che si è esaurita la riserva di fosforo non è più possibile produrlo, diciamo, in maniera, in un'altra maniera. E noi siamo attualmente dipendenti praticamente quasi al 80-90% del fosforo dal Marocco, dalla Turchia e dalla Giordania, mi sembra anche, e altri produttori a livello mondiale di fosfo, di fosfati, sono la Cina, che però ha chiuso praticamente le frontiere perché ne ha bisogno, e anzi è ancora tuttora un importatore di fosforo, di fosfati, e anche gli Stati Uniti, che chiaramente anche loro non è che ci tengono molto a venderlo in giro. Per cui questa dipendenza che abbiamo adesso, per esempio, da un elemento come il fosforo, rischiamo di avercela anche tra qualche anno per quanto riguarda la produzione di alimenti. Noi già siamo abbastanza deficitari per quanto riguarda l'alimentazione del bestiame, per esempio. I nostri allevamenti sono fortemente dipendenti dalle produzioni di granaglie del Sud America, e continuare a perdere suolo agricolo non aiuta, rischia di farci ritrovare tra qualche anno, qualche decina di anni, in una situazione di totale dipendenza anche per quanto riguarda proprio l'importazione di alimenti. È una cosa che dovrebbe essere evitata. E per l'acqua siamo sulla stessa situazione, insomma, ce l'abbiamo, però dobbiamo tenerla ben da conto e in buona salute, perché l'acqua inquinata poi è difficile e costoso renderla di nuovo riutilizzabile con gli impianti di depurazione, e per cui diventa importante, fondamentale a questo punto, aumentarne la produttività, per cui produrre di più per ogni litro d'acqua che viene utilizzata meno in agricoltura, per cui usando poi tutte le cose di cui la ricerca che la ricerca sta cercando di sviluppare a livello genetico, per migliorare le varietà, per migliorare l'utilizzo delle tecniche irrigue e quant'altro, insomma. Allora Massimo, visto che siamo proprio alle ultime battute, diciamo così, e abbiamo detto che il verde è il colore della trasmissione di oggi, che è anche un po' il simbolo della speranza, no? Speranza, sì. E quindi la speranza, come dicevi tu, la ricerca va nel senso di aiutare quindi l'agricoltura a rimediare anche a molti errori che sono stati fatti nel passato. Probabilmente dobbiamo anche tutti noi acquisire uno stile di vita che sia più rispettoso dell'ambiente, e quindi anche del suolo, dell'acqua, individualmente magari, se tutti ci dessimo da fare, anche questo potrebbe aiutare. Ma per quanto riguarda l'uso dell'acqua, penso che ognuno di noi possa fare la sua piccola parte, prendendo qualche piccola buona e sana abitudine nell'utilizzo giornaliero dell'acqua. Diminuire gli sprechi si fa presto e non è così difficile. Ed è semplice. Sì, è molto semplice. Non lasciare rubinetti aperti o rubinetti che gocciolano, perdono quantità enormi di acqua. E per quanto riguarda invece il suolo, il cittadino, il singolo cittadino può fare ben poco, insomma, perché è una cosa che dipende più dalle istituzioni e dalle leggi e dai regolamenti. Ora, i nostri colleghi della Direzione Generale Ambiente stanno cercando da anni di varare una direttiva sui suoli per permettere appunto il minor consumo di suolo agricolo da parte di altre attività, però trovano qualche blocco a livello dei paesi, degli stati membri. Però noi come ricerca e loro come protezione dell'ambiente stiamo lavorando in maniera abbastanza coordinata per riuscire a fare qualcosa di meglio di quello che stiamo facendo fino adesso. Bene, allora grazie di queste ultime parole di speranza. Io vorrei ringraziare un ospite silente che è stata qui in studio con noi, che ha detto che non voleva parlare e quindi non ha parlato, e non diciamo neanche il suo nome, è un così segreto, rimane così anonima. Anonima. Ah. Ecco, almeno questo lo diciamo. Almeno questo. Ringrazio moltissimo Massimo Burioni per essere stato con noi. Magari tra qualche anno ti reinvitiamo per vedere a che punto siete con le vostre ricerche. Volentieri. E ci dai dei dati precisi. Ecco, grazie ad Anna Maria. Grazie a te Rosanna. E naturalmente rimanete sintonizzati con i colori dell'anima, invece vi ritroverete lunedì prossimo sempre alle 21. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera.